Noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Intervento regolare da parte di Bonucci, possibilità per la Juve, ancora con Morata, il tocco nella zona di Vidal, lo scarico verso Pirlo, Pirlo prova, Pirlo! Pirlo! Pirlo! Speravo fin da piccolo, ho il sogno di diventare un giocatore e di poter giocare un mondiale, ho avuto la fortuna anche di vincerlo, quindi i miei sogni si sono avverati tutti fino in fondo. Adesso continuo a giocare, ho ancora sogni da realizzare e cercare magari di vincere un altro mondiale. La vittoria nella finale di Coppa del Mondo penso sia la vittoria più importante della mia carriera. E poi il cambiamento dal club alla nazionale non c'è, perché si gioca a calcio e quindi ci si diverte uguale. Per me giocare a calcio è un divertimento e finché avrò voglia e passione continuerò a farlo. Poi dopo, una volta smetterò e mi passeranno queste cose, magari cambierò anche atteggiamento. Buoni brividi ci vengono, e come piace dire al mio compagno di banco, mio alter ego on air, Pierluigi Pardo, qui presente, il calcio è... Sì, è liquido, ma insomma, il calcio è liquido, ma Pirlo è solido, possiamo dire. Pirlo è solido, però io è una posso... di quelle cose che è durata per tanti anni e ci ha regalato gioie. Si è ritirato, però io posso dire una cosa. Allora, Pirlo è stato Pirlo. Forse Pirlo non sarebbe stato Pirlo senza uno come Rino Gattuso vicino. Posso forzare? Ma sicuramente. Me lo consenti, Pardo? Sicuramente, anche perché Gattuso è stato Gattuso. E Gattuso è stato Gattuso anche perché c'era Pirlo vicino. E c'è il professor Gattuso, buongiorno. Lei me lo consente, dottor Gattuso? Buon pomeriggio, non sono nessun dottore. Però non diciamo stronzate. Io mischiamo la Nutella, per non dire qualcos'altro, con le cioccolate finte. No, diciamo pure stronzate, Rino, perché un talento come Pirlo aveva bisogno, anche fisicamente se vogliamo, anche dal punto di vista emotivo. Io quando vedevo Pirlo giocare, io tante volte mi dicevo, ma io posso giocare a calcio, capisci? Quello che vedevo fare, quello che faceva Andrea, tante volte dicevo che devo cambiare mestiere. Sì, ho capito, però guardalo anche fisicamente, chi l'ha visto da vicino come noi, come me, Pardo, insomma, diventare da trequartista dell'Inter, insomma, ripercorriamo la storia, a playmaker, alla difesa, prima Mazzone e poi Ancelotti hanno, certo, prima Mazzone e poi Ancelotti, a interditore, insomma, non aveva proprio il physique du role, diciamocelo. Ma guarda, meglio di me nessuno lo può dire, perché io comincio a giocare con lui quando nell'Under 15, dopo facciamo tutte le nazionali giovanili insieme, diciamo un'Europa Under 21, lui giocava mezza punta, ma anche da mezza punta faceva delle roba alla nostra età, che era fuori dal comune, si vedeva che era un giocatore che era dotato di una tecnica incredibile. Dopo è normale, in quel ruolo là, però lui aveva una caratteristica, che si parlava solo della qualità, ma lui a livello aerobico era un animale, era uno che poteva, quando correva facevamo i 1000 metri, facevamo ripetute, facevamo lavori intervallati, lui aveva una capacità cardiaca mostruosa, non solo tecnica, per questo che secondo me è durato fino a questa età, ed era uno che in campo correva tanto. Ma lui ci teneva, io mi ricordo la conferenza stampa, credo dopo Italia-Inghilterra, dopo il famoso Italia-Inghilterra col cucchiaino all'Europeo del 2012, lui ci teneva molto ed era vero a sottolineare questo aspetto, cioè che non era soltanto un giocatore di grande qualità tecnica, ma aveva anche dinamismo. Cioè Pirlo era anche uno che recuperava una marea di palloni. Ha imparato a farlo. Ma perché riusciva, perché aveva una caratteristica, perché dopo i suoi dati, guarda, l'altro giorno parlavamo che Bruno è il mio preparatore di primavera, che ha lavorato 14 anni a Mina, è stato 13 anni con me, 10 anni con Andrea, vedevamo i piatti. Lui era uno che quando proponeva i lavori per correre aveva avuto sempre grandissimi dati. Rino, mi racconti una cosa: com'è stato quel giorno in cui Ancelotti si è inventato Pirlo trequartista, cioè Pirlo davanti alla difesa? Cos'è successo quel giorno? Tu te lo ricordi? Ma era stata preparata, perché in allenamento per un paio di mesi. Se noi ci qualifichiamo l'ultima giornata, la penultima giornata, lui fa gol a Verona, se non mi sbaglio, l'anno, parlo della stagione 2001-2002. Sì. E già erano un paio di mesi che lo provava davanti alla difesa. Non è stata una roba improvvisata, ci ha lavorato, lo provava in allenamento, dopo quando è arrivato il momento l'ha messo in valore. Quindi non è stata una fulminazione improvvisa, non è stato un fulmine. C'è stato un lavoro che è un lavoro, anche se vuoi appunto isadattico, che chiama per una qualità nel possesso palla fin dall'inizio dell'azione. Cioè la svolta vera lì è stata quella di dare subito, in fase di costruzione della manovra, quei piedi lì alla manovra del Milan. Lui ama giocare corto, però gli piaceva anche lanciare, perché dopo a vedere tante volte con la Juve, con Conte ha cambiato anche modo di giocare, perché stava sempre là a pennellare, ne sbagliava veramente poco, no? Senti, con noi sicuramente lanciava molto meno. Assolutamente. Una delle cose che invece non tutti sanno è che Pirlo, in realtà, che uno vede dall'esterno un po', no, così apparentemente un po' ombroso, te lo dico io, lui, era simpaticissimo. Lui sembrava uno che un orso. Sì, sempre addosso, ma lui, fatemela passare, è un gran Fidana Mignon, tutti rispetto a sua madre. Sì, assolutamente, signora Pirlo. Era uno che prendeva in giro, era capace di prendere in giro per mesi e mesi. Era uno che era divertente stare con te. Non ci credo che prendevi in giro Gattuso. Io non ci credo che prendevi in giro Gattuso. Ti ho tirato più cinquini io che Bud Spencer a Terenzino. Pirlo è grande, grande comico, grande cabarettista, in incognito, diciamo. Senti, ma a parte che siete tutti allenatori e ovviamente vi auguriamo il meglio a tutti, ma secondo te lui ha la testa per fare l'allenatore? Pensi che sia quello lo sviluppo possibile della sua carriera adesso? Lui può fare quello che vuole nel mondo del calcio, perché ha un'intelligenza fuori dal comune, è uno che sa stare con gli altri, che ha credibilità e che ha una grande testa. Lui veramente può fare quello che vuole nel mondo del calcio. Sì, però fare allenatore è una cosa che ti consuma, quindi bisogna vedere se Andrea, che io non conosco certamente come te, ha voglia di consumarsi in quel ruolo lì. Questo non lo so dire, però continuo a ribadire che tu, insomma, hai giocato 10 anni, no, con Andrea? Io ho giocato un po' di più. Ho giocato 17, quasi 20 anni. Quasi 20 anni, nazionale compresa, naturalmente. Sì. E della nazionale come faceva a calarsi in quel ruolo lì? Io continuo a pensare che, insomma, avere uno come te vicino lo abbia aiutato in carriera. Poi tu dici di no, poi tu dici che sono stronzate, poi lui io... Nei momenti di difficoltà, quando avevo la palla veramente la davo a lui, ti dava da recuperare, ma fai quella che vuoi, nel senso, era uno veramente che ero sicuro quando ero vicino a lui, tanto perché ho capito quello che dovevo fare e il resto ci pensava lui, ed è per questo che sicuramente lui mi ha aiutato molto di più nella mia carriera che io a lui, sicuramente. Bah, senti, vediamo, io ho un'ultima curiosità che è sull'esperienza alla Juve, nel senso che in quell'estate lì, non va dimenticato, non ci furono delle manifestazioni in piazza per l'addio a Pirlo da parte dei tifosi del Milan. Cioè, sembrava, ovviamente, d'accordo con l'età, d'accordo con l'anagrafe, che insomma il meglio della carriera di Pirlo fosse già arrivato, ed era stato un meglio ovviamente spettacolare. Tu te l'aspettavi che avrebbe avuto? Lui ha avuto una fortuna incredibile, perché dopo, quando superi i 30 anni, nel nostro lavoro bisogna lavorare nel quotidiano e veramente bisogna far fatica, e quello solo allenamento. Ho avuto la fortuna di trovare quella Juventus che non faceva le coppe europee, lavorava, sapete come lavora Antonio Conte, uno che ti fa stare male durante la settimana, ma dopo dopo un paio di mesi cominci a volare. Lui mancava quello, lui ha cominciato a stare bene, il lavoro l'ha aiutato, ha messo più forza nelle gambe ed è venuto di nuovo con la voglia, perché aveva visto, aveva toccato con mano che lavorare durante la settimana lo faceva stare bene. Secondo me il segreto è stato quello. Oggi ho visto 1000 tweet di tutto il mondo del calcio, compreso uno di Balotelli, che diceva poteva andare avanti a giocare altri 10 anni. Vabbè, adesso non esageriamo stamattina. Mi ha intervistato un ragazzo per una tesi e mi ha chiesto l'utilizzo dei social è positivo o negativo, e gli ho citato l'esempio di Pirlo. Cioè, dipende, ma ci sono delle circostanze, e questa è bellissima, perché tutto il mondo si stringe attorno a un giocatore, anche degli insospettabili, ed è bello vedere questo, perché è una circolazione di sentimenti buoni, di celebrazione del calcio, di celebrazione del talento, di celebrazione dell'amicizia, che è favolosa. Rino, bocca al lupo per tutto. Bocca al lupo. Senti, più tardi. Un abbraccio e buon lavoro. So che ti piace. Metti la testa a posto. Rino, ma non dirlo a me, che io ci provo tutti i giorni da 5 anni, non gli ho ancora fatta. Abbi pazienza. Va bene, tu vieni a Tiki-Taka e io metto la testa a posto, va bene? Non crederci, non ti fare ingannare. Buon lavoro e complimenti. Senti Rino, più tardi abbiamo ospite Dovizioso. So che ti piacciono le moto, so che ti piace il motomondiale. Mandiamogli tutti insieme un in bocca al lupo, poi glielo porto io radiofonicamente. Allora io gli faccio in bocca al lupo a Dovizioso, però sinceramente non amo le moto, anzi è una battaglia con i miei figli, con mio figlio. Non fa così, sono pericoloso. Ciao Rino, grande. Vabbè, allora gli diremo di andare piano. No, non gli possiamo dire di andare piano. Devi ciao Rino. Allora, ci fermiamo a 8:00:24. Che spettacolo questi qua. Li abbiamo visti, Li abbiamo visti Pirlo, Gattuso, Del Piero, Totti. Li abbiamo visti tutti. Ma io che sono anziano ho visto anche Maradona, ma basta. Maradona ho visto anch'io, ero un bambino. Platini l'hai visto? Sì, ero piccolo, sono nel 74, ho visto Platini, ho visto Falcao, ho visto Zico. Rivera? No, Rivera. Mi ricordo di Rivera, una delle prime immagini, perché ero un bambino un po' pazzo, che mi piaceva il calcio a 4 anni, mi ricordo la famosa immagine di Rivera in Mila Bologna, credo, che va sotto la curva per evitare l'invasione dei tifosi nel giorno dello scudetto della Stella. Col microfono in mano. Dilettante. Però allo stadio qualità a vecchio traffico. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita, vi presenta Convocati. Però poi abbiamo, non tanto sul campo, perché poi abbiamo vinto con Israele e Albania, abbiamo pareggiato con la Macedonia, credo che fossero figli soprattutto di quel momento dopo la sconfitta contro la Spagna. Però sono tre cose che ormai sono alle spalle. Oggi c'è la voglia di fare queste due partite, c'è la voglia di andare ai mondiali. Noi andremo ai mondiali, perché nessuno di noi ha mai preso in considerazione il fatto di non andare ai mondiali. Autorizzati 65.000 biglietti a San Siro, che io ringrazio pubblicamente, perché quando l'Italia è di fronte ad una partita del dentro e fuori, l'Italia si è sempre compattata, e quindi queste sono le due componenti che ci danno stimoli e fiducia, quindi tutto il resto è aria fritta. L'Italia si è sempre destata, dice Ventura, Pierluigi Pardo, di fronte a partite importanti, in effetti San Siro sarà esaurito. Senti, ma com'era alciato quando si svegliava la mattina, abitava con te? Chi lo vedeva alciato? No. Alciato com'era? Abbiamo vissuto, quanto abbiamo fatto insieme? Un anno e mezzo? Sì, che detta così, eravamo coinquilini. Sì, mi pare ovvio. Non mi incrociavate mai? Grande rispetto per qualsiasi... Non mi incrociavate mai? No, ci incrociavamo, insomma. Adesso buongiorno, buonasera. No. Hai pagato la bolletta? Buon rapporto. Avevamo questa casa un po' surreale, perché io dormivo nel salone, in questo salone gigantesco, ma in realtà era una sola a dormire nel salone, perché Non puoi dormire in un salone di 40 metri quadri, c'è una stanza che non ha senso, c'erano due balconi, entravano spifferi ovunque, poi c'era tutto appoggiato per arrivare veramente la... una roba incredibile. Cioè, bisogna... allora io ho detto prima che... meglio dimenticare. Guarda, a me... io ho detto prima, parlando con Gattuso, c'era anche Nosotti, c'era anche a volte Marco Nosotti che si fermava, e allora Nosotti dormiva in cucina con un materasso, col materasso, e poi aveva questa collezione di maglie da calcio, ti quindi prego, dormiva spesso con la maglia di Benarrivo, no, del Parma, oppure anche con la maglia di Cozza, di Cozza della regina di Cannavaro del Parma sempre. No, veramente, quanta grazie, qualità. Ma il Noso è lì a Coverciano, che dice? Il Noso è da qualche parte a Coverciano. Dai, passacelo, passacelo, proviamo. No, non siamo vicini, Sì, faccio, perché adesso sto facendo, devo fare quel pezzettino lì sull'alberino di Natale, poi devo fare un pezzo di pallavolo sulla Tonno Callipo che gioca nel pomeriggio, poi devo andare a prendere Giulietto perché Giulietto torna da Formigine oggi, poi dopo, così, Noso. No, comunque, vabbè, stiamo deragliando, comunque io ho detto prima a Gattuso, se Pirlo non avesse avuto Gattuso vicino, forse non sarebbe potuto essere così grande. Ho esagerato, Gattuso mi ha detto non dire stronzate. Va bene, me la sono presa, però continuo a pensarlo. Se Pardo non avesse avuto lanciato vicino, o viceversa, non sarebbero stati così e forse era meglio. Sai, chi è Pirlo e chi è Gattuso? Io faccio volentieri Gattuso, da grande faticatore. Però il punto è, dai, raccontaci qualcosa che non sappiamo. Tu sei biografo di Pirlo, sei amico, insomma, un rapporto di Pirlo. Beh, c'è una cosa che mi ha sempre colpito, lui, quando gli chiedi come abbia fatto a diventare Pirlo, intanto lui non ti risponde che non si è ancora reso conto della propria grandezza, però c'è un momento in particolare in cui Pirlo è diventato Pirlo, quando giocava negli allievi del Brescia, quindi da ragazzino, anzi anche da giovanissimo, insomma qualche anno prima, lui piangeva sul campo, piangeva spesso, gli aveva delle crisi di nervi vere e proprie, perché i suoi compagni non gli volevano passare la palla. Succedeva una, due, tre, quattro, dieci, venti volte e lui scoppiava a piangere perché la situazione era semplice ma era orrenda, giustamente dal suo punto di vista. Cioè, no, a te non la passiamo perché sei troppo bravo, perché lui passava la palla e lui faceva gol, lui passava la palla e lui faceva cose che altri non riuscivano a fare, diventavano gelosi e non gli passavano la palla. E lui racconta sempre: io nelle giovanili del Brescia, cioè, giocavo contro 21 avversari, contro 11 della squadra opposta, dei compagni, e lì insomma o crollava definitivamente, perché tante volte ha pianto sul campo per quel motivo, oppure faceva lo scatto in avanti anche a livello mentale, l'ha fatto e poi da lì in avanti è diventato Pirlo. Questa è la cosa che mi ha colpito sempre in maniera particolare. Sì, però aiutatemi a supportare la mia tesi. Comunque il fatto di, insomma, al di là di Gattuso, Pirlo è diventato Pirlo in quel centrocampo disegnato da Carlo Ancelotti, e non potete correggermi perché non sto sbagliando. Gattuso ci diceva non c'è stato un giorno preciso in cui è nata quella chimica, quella formula. È chiaro che Pirlo davanti alla difesa è stato un'intuizione di Mazzone, poi perfezionata da Ancelotti, però Pirlo è diventato Andrea Pirlo quel giorno lì o in quel momento lì, e ha avuto vicino grandi compagni di squadra come Gattuso, ma come Seedorf, cioè gente con un fisico pazzesco, con due palle così, che sono stati disposti a rinunciare a qualcosa di loro e del loro talento, soprattutto Seedorf, per far diventare quella squadra qualcosa di indimenticabile. Anche Pirlo ha rinunciato a qualcosa, perché comunque quella posizione lì davanti alla difesa sicuramente ha tolto... Pirlo, fammi bestemmiare in chiesa, Pirlo trequartista non sarebbe stato questo tipo di giocatore. No, io però stiamo parlando di uno che da ragazzino c'era... Era una cosa incredibile. Mi racconta Prandelli, mi ha raccontato più di una volta, e questo anche fa capire, legato a quello di cui vi ho parlato prima, al pianto di Pirlo, che lui fosse già grande da piccolo. Nel senso che giocava nei giovanissimi del Brescia, all'Atalanta lo vedono, a Prandelli allenava le giovanili dell'Atalanta, e dico: questo è da prendere domani. Voi capite, Brescia-Atalanta non è che siamo due società amiche, due club amici. Riunione quasi d'emergenza all'Atalanta per prendere Pirlo, tutti d'accordo tranne uno, Percassi, vecchio presidente Percassi, che disse una cosa che Prandelli insomma si ricorda ancora oggi. Disse: no, lui è qualcosa di diverso, lui state tranquilli ragazzi, diventerà prima o poi il calciatore di tutti, non possiamo togliergli la felicità, non possiamo togliergli la leggerezza, facciamo un danno a noi stessi, sì, ma lasciamolo al Brescia e vedrete cosa diventerà. Ha avuto ragione Percassi, perché poi Pirlo con anni magari di ritardo, proprio come dite voi, con una posizione spostata, poi è diventato quello che abbiamo conosciuto tutti. Però che fosse già qualcosa di completamente diverso, cioè, si capiva da bambino, da ragazzino. Sì, sì, sì, questo è indubbio. Allora, giriamo pagina e andiamo verso il presente futuro. Italia Ikea, diceva ieri, diceva ieri l'illuminato Crosetti, brugola del 12, scaffale da montare e sullo scaffale bisogna appoggiare il mondiale di Russia. A che punto siamo con le viti e con le istruzioni? Siamo che in realtà non è ancora stato fatto un allenamento vero, il primo vero allenamento fra pochi minuti, nel senso che ieri palestra e poco altro, stamattina video, per dirvi che c'è pochissimo tempo per preparare la partita più importante dell'anno, la doppia partita più importante dell'anno. Siamo al punto in cui, insomma, Ventura si affida all'usato sicuro, all'usato garantito, perché sarà 3-5-2, quindi sistema di gioco diverso dal 4-2-4 di Ventura, e per 7 undicesimi almeno, che potrebbero diventare 8, sarà con lo stesso sistema di gioco anche negli uomini, la stessa formazione che con Conte in panchina ha battuto la Svezia all'Europeo, con un dato sicuro, dico Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini in difesa, e quindi c'erano tutti e quattro contro la Svezia all'Europeo, con Candreva a destra e lui c'era all'Europeo, Parolo al suo fianco e c'era all'Europeo, De Rossi al centro dell'Italia e c'era all'Europeo. I cambiamenti saranno Verratti, che all'Europeo non c'era, a sinistra un Darmian Spinazzola, quella volta giocò Florenzi, ma adesso nel 100%, in realtà cambia l'attacco. Secondo me siamo messi va bene in attacco, perché giocheranno Zaza, che in Spagna, sapete tutti cosa sta facendo, vice capocannoniere di promessi, e Ciro Immobile, che comunque è primo nella classifica della Scarpa d'Oro, che trasforma in oro tutto quello che tocca in questo momento. Quindi io non sarei così pessimista unendo tutti questi indizi. Certo è che si affida all'usato sicuro più a un attacco decisamente importante. Quindi, insomma, non appoggio troppo quelli che sono pessimisti. No, anche il pessimismo. Soprattutto perché il sistema di gioco è quello che sostanzialmente, magari è brutto dirlo, hanno chiesto i giocatori. Noi ci sentiamo più sicuri così a giocare così contro la Svezia. Io non, sinceramente non sono pessimista, sono teso, nel senso che è chiaro che quando tu giochi una partita contro un avversario comunque rispettabilissima dentro su fuori. 180 minuti dentro fuori, il rischio c'è, voglio dire, cioè, se sbagliamo, no, c'è sicuro, se sbagli partita rischi di andare fuori, quindi è ovvio che se vai fuori te lo meriti. Sì, no, ma infatti, allora, poi vabbè, al netto del discorso che un girone con Spagna e Italia secondo me è ridicolo, ma insomma questo è un discorso, dai, questo che discorso, ho fatto mille volte, di questo un po' più ampio. Ciao Ale, ciao, ciao. Saluto se vedi il noso, se vedi il noso, digli che ha lasciato la maglia di Bonazzoli vicino al lavello. A voi, ciao, ecco, ragazzi, le fasce laterali, ciao. Il football Dario Simic, abbiamo Cacacalazze, Cacabel, a voi Borsa. Mancherebbero 2 minuti, però mi hanno dato 3 minuti di proroga, quindi posso chiudere alle 23.20, manca 23.24, quindi vai con calma. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Ci vediamo da morire oggi con Giorgio Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia di là dal vetro, con la buon costume di sotto che ci aspetta, Pardo. Perché la buon costume? No, stanno dicendo una montagna di cazzate. Beh, no, ma ragazzi, puntata super, e tra poco arriva Dovizioso. Tra no? poco arriva Dovizioso, dopo Gattuso arriva Dovizioso, intanto arriva Luca dalla provincia di Livorno, buongiorno. Ciao Luca. Ciao. Buongiorno, ciao, mi sentite? Sì, sì. Ciao, bellissima trasmissione come sempre. Grazie, grazie. Complimenti. Allora, dunque, sono uscite le convocazioni stamani mattina e io ho già litigato con un amico. No, nel senso che in maniera bonaria. Siamo un gruppo di amici molto affiatati, ci guardiamo sempre la nazionale, quindi abbiamo anche una chat dove discutiamo. Fondamentalmente i miei amici non hanno minimamente apprezzato il ritorno di Zaza, che io mi ritrovo a difendere non in quanto tale, perché non è Maradona o Pelé, però fondamentalmente può essere un giocatore che funziona. Meno male, no, Pelé non lo stanno neanche, perché proprio ti danno la colpa. Sì, di tutto. Io dico sempre, cioè, abbiamo fatto un bellissimo europeo, ci siamo tutti divertiti, quello del 2016, la squadra era quella che era naturalmente, e questi non concepiscono il fatto che questi siano tirato 2 rigori, insomma, da vergognarsi. Però quello che io faccio sempre notare, faccio la gamma, siamo così sicuri che quella squadra lì era un blocco, cioè non possiamo arrivare fin lì, battere la Spagna, battere il Belgio e poi invece fare i mega disfattisti quando invece ci dimostriamo poi per quel che siamo. Dici che sono d'accordo con te io, nel senso che Zaza sta bene in questo momento, è in condizione e quindi è giusto chiamarlo, e poi sono d'accordo anche sul principio. È chiaro che quei due rigori lì che abbiamo ricordato sono due rigori non solo sbagliati, ma proprio sbagliati come concetto. Cioè, voglio dire, è ovvio che siano rimasti nella testa di noi tutti. E non sono dettagli, perché in uno sport come il calcio, dove spesso i dettagli fanno la differenza, insomma, possono incidere. Però è vero pure che mi verrebbe a dire: non è da questi particolari che si giudica un giocatore. Lo stavo dicendo io, come dice il poeta. Meno non aver paura, dai. Che vogliamo fare? Rigore. Adesso non chiamiamo più Zaza tutta la carriera per questo, perché ha sbagliato rigore. Non mi sembra il caso. Tutti i grandi giocatori hanno sbagliato rigore. È vero che lui l'ha sbagliato male, come Pelé l'ha sbagliato malissimo. Però, insomma, dai. Però Nino non aveva paura di tirare un calcio di rigore. Roberto Ungaro è all'Eikma, cioè nel santuario Sancta Santorum milanese del futuro delle moto. Ciao Roby. Ciao Carlo, sì, sai che quest'anno, come tutti gli anni, c'è Eikma, ma quest'anno, anno dispari, non c'è anche il Salone di Colonia, quindi tutto il mondo delle due ruote è qui, sport compreso. Manca solo gente in questo momento, ma arriverà. No, non vengo, non vengo, perché sennò non esco più, mi devono portare fuori i carabinieri. Il venerdì che è gratis per le donne. No. Carlo. Ti mando delle amiche, io non vengo, cioè dichiaro la mia assenza in quel posto lì. Ce n'è già troppe qua. Ecco, quindi, allora ti mando Pardo. Ecco, quello sì. Perché qua è difficile rimanere concentrati. Ma ho la testa a posto, mi ha detto Gattuso. Cosa già ce l'ho, cosa vedi in giro? Allora, Carlo, è un salone delle conferme. Devo dirlo. Cioè, evoluzione sì, ma rivoluzione no. Le maxi enduro vanno a gonfie vele, quindi le icone si rinnovano, ma ne nascono anche tante altre, quindi confermo che la moto da strada oggi è la maxi enduro. Le nude piacciono sempre, interessante la Honda nuova, disegnata tra l'altro da un italiano, molto molto carina, è una nuda attuale, dove andrà adesso. Poi le classiche affascinano sempre, quindi si moltiplicano. Una su tutte la Kawasaki Z900, te lo ricordi Carlo, quella degli anni 70, che era una sportiva allora. Oggi invece è una nuda molto comoda, non dico da passeggio perché ha sempre un 4 cilindri, però bella moto. Le sportive non pervenute, a parte Ducati che apre un nuovo capitolo e passa da 2 a 4 cilindri, riscrivendo se stessa. E perché la Panigale V4 è un oggetto che è uno stato dell'arte, gioielleria. Curiosità, è più bella svestita che vestita. Guardare per credere, Carlo. È esposta sotto una teca, è veramente gioielleria tecnologica. L'elettrico avanza a piccoli passi, nulla a confronto al mondo auto e al mondo bici, però si fa vedere sempre di più. Il futuro, però, forse, ci dice Yamaha, potrebbe essere a tre ruote. C'è un oggetto strano, no, che chiama non Nike. Non parlami di tre ruote. Dopo l'elettrico mi parli di tre ruote. Sì, dopo, allora, hai parlato di Naked, dopo che mi hai detto più bella nuda che è stata, mi parli di elettrico, di tre ruote. Abbi pazienza. Guarda, devo essere obiettivo. Piace o non piace? Cioè divide. A me tre ruote ricordano gli scooter. Cioè non c'è niente da fare. A me i tricicli. E quindi, però, siccome questa è una moto, a me l'ape tre ruote, questa no? Si mette tanta voglia di provarla, te lo dico, perché chissà come sarà. In curva l'appoggio non le mancherà di certo, siccome ha più di 100 cavalli, il motore quello della MT09, un bel tre cilindri, sarà interessante, mette curiosità a provarla. Che piaccia, quello è soggettivo, io non mi espongo, però divide, quello sì. Questo è il salone in generale, Questo salone in generale, al salone. Sei con qualcuno? Pierluigi, cosa dici? Io guarda, sui motori sono un po' in ritardo. Devo dire che stamattina, con forse un paio di settimane di ritardo, ho visto quello spot di Mercedes dedicato a Ferrari sulla vittoria del mondiale. E mi è piaciuto moltissimo. Mi è sembrata una forma di lo sport in purezza, proprio, cioè un omaggio a una grande rivale da parte. Mi è piaciuto da matti. Quindi pensa come sto. C'ho 20 giorni di ritardo, tipo il satellite. Sai che divide quello spot? Sì, divide. Per te è più uno spotto o è più un omaggio? Per alla me grandezza? È una meravigliosa operazione di marketing ed è un omaggio alla grandezza di Ferrari da parte di un altro grandissimo marchio. cioè certo, la frase, certo. La frase finale spiega tutto. Mi rendo conto che adesso lo diciamo per chi non l'avesse visto, c'è questa macchina, questa GT meravigliosa che passeggia per, prima in pista e poi sfreccia via da Maranello, e quasi come una beffa, e poi però c'è un cartello che dice la grandezza di una vittoria la misuri dal livello degli avversari, ed è un grande omaggio alla Ferrari. A me è piaciuta tantissimo ed è la dimostrazione del fatto che poi insomma per me è sportività pura al 100%. Poi è ovvio che c'è una punta di ironia e ci si vede l'anno prossimo, ovviamente, su questo non ci sono dubbi, però secondo me è una cosa molto bella. Ma con chi sei tu lì? Con chi sei? Allora, io mi trovo allo stand Ducati, ecco. Perché tra poco, pochissimo, attesa una persona. Una persona sì, è lui, diciamo. Allora facciamo una cosa, abbiamo 30 secondi, ne mandiamo al traffico così poi siamo liberi. No, aspetta un attimo, fammi sentire Valentino Rossi prima. Che ha parlato a lei, ma Valentino Rossi. Dopo l'Australia ero molto ottimista perché avevamo trovato delle cose e sarebbe stato importante avere una conferma in Malesia. Una mezza conferma l'abbiamo avuta, perché comunque nelle prove sull'asciutto sono sempre stato molto veloce. Poi purtroppo 20 minuti prima della gara ha piovuto e invece sull'acqua siamo un po' in difficoltà. Però deciderò l'anno prossimo dopo qualche gara, e se sarò competitivo mi piacerebbe continuare, però vediamo. Beh, speriamo, per Luigi. Oggi abbiamo celebrato l'addio a Pirlo, speriamo di non trovarci qui dopo tre gare dell'anno prossimo a celebrare il commiato del 46 giallo, che poi sarebbe una tragedia per l'intero circuito moto mondiale, ma non scopriamo niente di nuovo. Allora facciamo così, andiamo con Ciaffico e poi Dovizioso. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti convocati. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta. Tutti convocati. Allora, Giorgio Luca dalla regia. Ricordiamo ci dice che cosa deve succedere a Valencia domenica. Succederà a Valencia domenica, l'imponderabile. Senti la mia considerazione, perché a livello psicologico è molto più sotto stress Marquez rispetto al Dovi, perché il Dovi può solo fare una cosa, vincere, e deve vincere. Sappiamo che l'altro deve fare oltre il 12°-13°, abbastanza improbabile, però siccome Valencia è un toboga molto piccolo e tra l'altro il meteo dà bello per un'intera settimana, quindi anche i test faranno l'asciutto, abbiamo visto che la Ducati sull'acqua fa i miracoli, ma sull'asciutto c'è da conquistarsela la vittoria. Quindi quello che volevo dire è che il Dovi alla fine lui deve entrare a vita persa e giocarsi il suo gioco, non si guarda neanche dietro e deve solo sperare. Pensate invece a Marquez, che ha tutto da perdere, perché magari un contatto, una sportellata, e lì dentro quella pista è così piccola. Adesso io non voglio, perché non dobbiamo dire niente. Però a livello psicologico, secondo me, soffre di più Marquez, perché ha tutto da perdere, mentre invece il Dovi ha tutto da... Può un serpente a sangue freddo sentire la pressione? Io non ci credo. Ma finché c'è corso, no, per carità, ma può poi un serpente sentire sangue bollire? Diciamo che la situazione è anche un po' scomoda, ne parlavamo anche ieri sera a Tiki Taka, perché è ovvio che insomma qui c'è anche una sportività, no? Però ecco, magari una candela, ci sono le candele nelle moto, vero? Sì. Ci sono sempre, una foratura a fin di bene, una cosetta. Una foratura, scusa, mica. Una foratura, comunque, un chiodo che si pianta una gomma, può succedere. Certo. E comunque, ragazzi, io quello che adesso, aspettando il Dovi, sai cosa mi piacerebbe chiedergli? Perché abbiamo letto di tutto e di più. Noi sappiamo che lui quest'anno, da Dottor Jekyll, è diventato Mr. Hyde. Si è trasformato, pur rimanendo quello che è una bellissima persona giù dalla moto, però si è trasformato, cioè non le ha mandate più a dire. Abbiamo letto di tutto, mental coach, moto giusta, bella squadra. Sapete, secondo me, invece, la vera verità qual è? Lui in passato ha sempre sofferto Lorenzo, perché quando era in 2.5 Lorenzo aveva la Aprilia che era molto più competitiva, e invece il Dovi aveva la Honda che andava di meno, e poi in MotoGP Lorenzo ne ha 23, e il Dovi ha sempre avuto un compagno di squadra più forte, ovviamente anche Lorenzo all'inizio ce l'ha avuto con Valentino, però ha sempre subito. Quest'anno, ma non per un discorso di stipendio, quest'anno avendo lì di fianco Lorenzo e potendolo batterle e avendolo battuto, lui ha creduto in se stesso, cioè si è detto: posso essere anch'io il numero uno. E quindi quella mappatura mentale da numero due, da perdente tra virgolette, gli si è sbloccata ed è diventata un'altra persona. Mi piacerebbe provocarlo e chiedergli se questo è il vero motivo, oltre a tutto quello che abbiamo già letto. Cosa ne dite? Sì, d'accordo, adesso fai una cosa, sfreccia, vai verso, voglio dire, il mondo delle morte. Sfreccia verso il Dovi, dai. Il problema è che arriva, perché se no tra un po' chiudiamo il programma e ciao ciao, quindi... Hai ragione, abbiamo pochi minuti. Allora, l'unica è andargli incontro. Vai, dai, sfreccia, facci la telecronaca. Con che gomme vai? Gomme l'asciutto oggi ancora? Lo stand della Ducati è talmente pulito e lucido che ci vorrebbero le reni. Sapete un'altra domanda? Giù della torre, Iannone o Lorenzo? Questa non sarebbe male, eh? No, non chiederlo a Turrini, per favore. No, non chiederlo a Turrini. Ma Turrini non c'è, quindi. No, Turrini non c'è, quindi. Ah, quindi gli piace Iannone. Ragazzi, sta arrivando, eccolo qua. Eccolo qua, è sulle scale. Non lo lasciano, non lo mollano. Dai, dai, sei negli scarichi. Lo prendiamo. Guardate qua, tenete duro, sto salendo le scale con lui. Sali. Sto salendo le scale con lui. Aspettate che mi metto in un posto dove non c'è casino. Dai, qua, digli, ragazzi, un patacchino, digli una roba. Allora, digli una roba romana. Io gliela dico in diretta, perché questa cosa merita. Allora, sono qua di fronte a lui. Andrea, innanzitutto grazie. Io quello che voglio chiederti è questo: tu quest'anno da Dottor Jekyll sei diventato a Mr. Hyde, pur rimanendo la bella persona che sei giù dalla moto, però ti sei trasformato. Abbiamo letto di tutto: mental coach, moto giusta, squadra. Io voglio chiederti questo: non è che quest'anno con di fianco Lorenzo, che hai sempre subito in passato quando lui era su Aprilia e tu Honda, e poi è andato nel mondiale, ha fatto quello che ha fatto, tu hai avuto sempre un di fianco molto ingombrante, non è che averlo battuto ti ha fatto credere più in te stesso e hai scoperto di essere un numero uno, ma come lo sei sempre stato, ma era dentro la testa, Andrea? No, quest'anno i risultati importanti arrivano sempre da un insieme di fattori. Non esiste un fattore che ti fa ottenere dei risultati così importanti a livello mondiale. Ci sono tanti aspetti su cui bisogna lavorare e non ho mai smesso di cercare di trovare qualcosa di più di quello che avevo trovato, anche a 31 anni secondo me c'è margine in tutti gli sport di cercare di migliorare. E sono riuscito a individuare certi aspetti dove non ero ottimo e ci ho lavorato. E questi piccoli aspetti, quando li metti in campo, facilmente arrivano i risultati, perché comunque quando sei già ad un livello vicino alla vittoria, basta che migliori qualcosina e ti giochi la vittoria. Poi, durante la stagione, quando vinci il Mugello, è logico che ti scatena qualcosa dentro, il lavoro col team migliora, tutti ci credono, tutto fa e tutto va nella direzione giusta, ma è un insieme di tantissimi fattori messi insieme che ci hanno permesso di giocarci il mondiale fino all'ultima gara a Valencia. Uno è anche il discorso Orghi, sicuramente, tanto era da tanti anni che siamo sempre stati avversari, quest'anno abbiamo avuto la possibilità di avere la stessa moto ed è normale che è una sfida interna interessante, ma non è quello, perché era facile poterla accusare una situazione del genere, dato che è normale che quest'inverno si spingeva tanto in quella direzione. Invece io mi sono concentrato su me stesso, cercando di non dare importanza a certe dinamiche che si stavano muovendo, e alla fine sono riuscito a tirare fuori qualcosa di più da me, e quindi questo è quello che era fondamentale fare e ce l'abbiamo fatta, quindi è una gran soddisfazione. Quando vuoi ottenere un obiettivo e punti su una cosa e la ottieni, vuol dire che ci hai preso. Dovi, sono Pardo, quel simpatico cialtrone tiki-taka che siamo sentiti ieri sera. Esatto. No, ieri mi hai molto colpito, perché secondo me su tutti i tentativi, poi c'era Cruciani, metteva Zizzania, tu hai ricordato che insomma si va a fare una gara bella, si va a cercare di vincere, ovviamente l'obiettivo tu ce l'hai chiaro in testa, e poi quel che sarà, sarà. E parlando anche con Ungaro un istante fa, mi sembra l'approccio giusto di fronte a questa gara, no? Ma assolutamente, ma ho sempre vissuto così. Però sono stato sempre abbastanza nell'ombra, perché se non vinci in questo mondo non vieni considerato più di tanto. E adesso allora viene data più importanza, viene vista come una cosa bella, ma io non sono cambiato. io sono dovizioso di prima, semplicemente che ha ottenuto qualcosa di più e si sta giocando il campionato. Assolutamente. Senti, Andrea, a parte il fatto che io ho sotto gli occhi prove fotografiche imbarazzanti, inquietanti con Marino Bartoletti, con te, ragazzino con una strana casacca, l'abbiamo anche twittata, quindi con pardon. Però allora arrivi al playoff come? Questa è una prima domanda. Seconda, la più bella qual è stata? Perché noi abbiamo tutti negli occhi quel vaffa a Marquez che ci ha fatto impazzire. Allora, no, in questa situazione lo sto vivendo molto serenamente, perché è normale che si vive sempre dell'attualità. L'attualità è andiamo a giocarci il campionato, come tu puoi recuperare, ma non è così, o meglio, io non la vedo così. Analizzare la stagione e vivere un momento, cercare di capire come vivere al meglio un momento, è analizzare che cosa è successo quest'anno, è capire che cosa abbiamo fatto di buono quest'anno. Abbiamo fatto davvero qualcosa di strepitoso, siamo riusciti davvero a ottenere qualcosa di speciale, creare qualcosa di speciale. Quindi questa è la realtà e questo è quello che mi fa vivere sereno, che mi fa approcciare in un modo sereno questo weekend, che sì, è importante perché ci possiamo giocare il campionato, ma obiettivamente le possibilità di riuscita sono talmente piccole che se uno analizza quello, con che motivazione ci può andare a Valencia? Quindi sì, l'obiettivo è cercare di vincere la gara, perché è l'unica cosa che possiamo fare, ma probabilmente può non bastare, quindi la viviamo molto serena. Però la più bella, quel vaffa Marquez, dai, diccelo. Guarda, da pilota, yes. La gara più bella è stata il Mugello. Ah, ok, va bene. Perché sì, casa Mugello, tua, va bene. Sì, è il Mugello, il Mugello per gli italiani, per gli Ducati. È stata una roba di potere strepitosa. E la gara più bella per me, a livello di strategia, tutto, è stata Silverstone in Inghilterra. Silverstone, sì. Sì, però sì. Logicamente ha fatto molto effetto quel gesto. Diciamolo, Andrea, diciamo, dove il vaffanculo Marquez. Sì, sì, ma comunque, il concetto era chiaro, c'era bisogno adesso. Potevi anche però, dire vaffa. Però, sì. Aspetta, sì. Io ho detto quel vaffa, ma in un modo educato. Educato, perché tu, io no, cioè, mentre c'è Turri che mi scrive, mi manda un WhatsApp giù le mani da Iannone, che meraviglia. Vabbè, ci sentiamo presto, eh. Oh, in bocca al lupo. Comunque io dico, voglio dire che anche le forature, dove nessuno si fa male nella vita, possono capitare. Ciao Andrea Dovizioso. Grazie a tutti, Giorgio Drughi, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia. Siamo in prima pagina sull'homepage di Gazzetta con Gattuso, un grande successo del signor De Luca, De Luca. Ci ha fatto il comunicato, Gattuso, Pirlo può far tutto, era un gran figlio di. Ovviamente ciao, Paolo, ci sentiamo domani? Claro che sì, a domani, ciao e casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte, saluti.